vida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Buonasera, buonasera signore e signori, ladies and gentlemen, madame, messieurs, signore e signorita. Come va? Benvenuti a questa prima di Clandestino qui su Fuori Onda Radio, un programma fatto tutto di buona musica e divertimento. Vorrei presentarvi il crew, diciamo, alle mie spalle, Peppone, l'epico, inequarabile, sempre. E poi abbiamo un ospite d'onore, quella a mia sinistra. Prego, di il tuo nome. Yes. Direttamente dalla Tunisia questa sera per parlare un po' di cosa si dice oltre il Mediterraneo e cosa ci dirà al riguardo della nostra terra. Ok, adesso partiamo subito con un altro pezzo, se Peppone ci dà il via. Buon ascolto. Rivoluzione sociale non si è fermata se non è preceduta da un'evoluzione di pensiero. Oppressioni. Organizza la tua mente in nuove dimensioni, libera il tuo corpo da navi e oppressioni. Temporale, mandala al potere nel tuo organo sessuale. Libera la tua immaginazione temporale, mandala al potere nel tuo organo sessuale. Innocenti dagli istinti un po' bestiali, cercano l'amore dentro i parchi e lungo i viali. Thank you. E siamo di nuovo in onda con Franco Battiato di New Frontiers, proprio per questo la tematica della New Frontiers. A proposito, vorrei incominciare l'intervista con il nostro ospite d'onore. Subito comunque iniziamo con What's your name? Yos. Ok, Yos, da dove vieni tu, Yos? Dalla Tunisia. Dalla Tunisia, quindi da quanto sei qui in Italia? Da 2 anni quasi. Cosa fai nella vita? Studio. Cosa? Chimica. Chimica, benissimo. Allora, Yos, niente, parlaci un po' di te, da come si vive in Tunisia, dai. Si vive bene abbastanza, dipende. Da cosa? Dalla famiglia, dalla situazione economica, niente. Comunque, vabbè, no, io mi trovo bene in Tunisia. E come mai studi qua in Italia? Perché da bambina volevo studiare all'estero. E volevo liberarmi, andare fuori, a scoprire, a vedere il mondo, a conoscere gente e tutto. Ah, che bello, quindi proprio, diciamo, ti immedesimi nel clandestino. Sì. In un certo senso, non illegale, comunque. No, è legale. Okay. Ascolta, Yos, non lo so, parliamo un po' della tua terra. Della Tunisia? Certo. Parliamo, cominciamo, dai, non lo so, un fatto importante che c'è stato nella Tunisia e che comunque ha dato un'opera, diciamo, didascalica a tutto il mondo è stata la cosiddetta rivoluzione, no? Rivoluzione, sì. La benedetta, attenzione, la benedetta rivoluzione. Quindi, come si viveva prima e come si viveva adesso? Diciamo, un passaggio. Si viveva male prima e mo' peggio. Ah, peggio, Yos. Sì, peggio. Prima in Tunisia soffrivamo della povertà, della povertà, no? E adesso ancora non abbiamo risolto il problema, cioè politicamente neanche, la libertà ancora non c'è, la disoccupazione sì, ancora non l'abbiamo risolta, niente, non lo so, è stata una rivoluzione, una cosa grandissima, una cosa bellissima, però ancora ci vuole lavoro, ci vuole sacrificio, ci vuole pazienza anche. Il cosiddetto dégage. Dégage. Cioè, spiegami questa parola dégage, cosa significa per te proprio? È una parola molto forte, una parola proprio diretta, una parola di forza, una parola di volontà, una parola di voler cacciare qualcuno che non ti vuole bene, una parola di voler vivere bene, di voler la libertà, di volerla per bene. Ok, Yos. Ma prego, dimmi tutto, Peppe. C'è una domanda dal pubblico. Chiedono, è facile per i tunisini spostarsi all'estero, burocraticamente parlando? Se è facile per i tunisini spostarsi all'estero, burocraticamente parlando? Allora, per i tunisini è facile spostarsi, anche non regolarmente. Come mai? Soprattutto in Europa, diciamo, no? Perché siamo un popolo arabo, musulmano, no? Però siamo molto aperti all'Europa. Siamo molto aperti all'estero, quindi siamo un popolo diviso, no? Un popolo che non ha una personalità, una indipendenza. E come soffriamo già di quei problemi, della povertà, di tutto, vogliamo a migliorare la nostra vita. Perché non possiamo risolvere i nostri problemi proprio nel paese, quindi ce ne scappiamo, vogliamo vivere liberi fuori. Ma cioè, anche per facendo un piccolo quadro storico, no? A livello tipo dell'occupazione francese che c'è stata in Tunisia, c'è stato comunque quello sbalzo, no? Che ha portato comunque a un cambiamento, no? Un ulteriore cambiamento nella storia. Eh sì. Ma e quindi siete dispiaciuti per quello che è successo? Cioè avete contrastato questa occupazione? Come la vivi tu? Cioè, l'hai vissuta, anzi? Vabbè, io non l'ho vissuta, però mio padre sì. La Francia, quando è venuta in Tunisia, ha fatto delle cose buone, ha costruito le scuole, le strade e tutto, però ci ha occupato. E ha lasciato però la sua cultura, le sue tradizioni, la lingua anche, che noi il francese... però siamo un popolo dipendente, cioè siamo tunisini alla fine. Siamo aperti, però vogliamo la nostra indipendenza, vogliamo la nostra... nazionalità e origini tunisini. Beh, certo, la seguite e la ricercate anche per questa rivoluzione che c'è stata, un insegnamento per tutti. Ma dopo la rivoluzione c'è stata una votazione, cioè adesso chi c'è al potere, diciamo, chi ha il governo? Un partito religioso che non doveva avere il potere, cioè non doveva vincere le elezioni. E li ha vinti, non so come mai, perché, cosa ha fatto. Sicuramente hanno giocato le carte sotto il tavolo. Quindi un partito religioso. Tu che rapporto hai con questa religione che comunque è molto sentita nei paesi dell'Islam, diciamo? Io sinceramente la odio. Addirittura, come mai? Dimmi. Io non sono nata in una famiglia musulmana. Mia mamma, cioè, i miei sono praticante, mia mamma porta il velo e fanno la preghiera, io no, non ci credo e non pratico la religione, e meno male che c'ho genitori che mi hanno lasciato il mio spazio, la libertà di fare quello che voglio. L'Islam è una religione, beh, con tutto il mio rispetto, però molto chiusa. Allora, cioè, la religione e la politica sono due cose che non devono stare insieme. Hai ragione, io stai parlando proprio parole sante. Ma quindi, come sei vista anche cioè, a livello di società, no? Cioè, dato che tu hai detto no, questa religione la saprà qualche tuo amico, qualcun altro, cioè vieni vista in modo, cioè, come l'anarchica, non lo so. Questo partito politico che ha vinto hanno giocato sul punto debole di una persona, la religione, la paura di Dio e la paura dell'inferno. Quindi hanno vinto più per questa cosa, che hanno usato la religione per convincere la gente. Come se non votate per questo partito andrete in inferno, all'inferno, no? Però secondo me, lo dico sempre, la religione non ha nessun rapporto con la politica, non lo deve avere. Sono due cose separate. Quando la religione va che sia con la politica, si sporca, avrà un altro senso. È questo. Va bene, Jos, va bene. Adesso terminiamo per adesso qui. Jos comunque ci accompagnerà per tutta la trasmissione. Non dimentichiamolo. Adesso comunque Jos aveva portato una canzone bellissima. Ce la presenti? Eh sì. La canzone si chiama La mia parola libera. La mia parola libera è una canzone che ha cantato Amel Masluthi, il nome della cantante. L'ha cantata Amel Masluthi, ripeto, è una canzone che parla della libertà, è una canzone molto spirituale, una canzone che è profonda. La senti tu a questa canzone, in certo senso? Voglio leggere il testo in italiano, così. Così almeno lo capiscono. Allora, la canzone dice: io sono coloro che sono liberi e che non hanno paura, sono i segreti che non rimoriranno mai. Sono la voce di chi non si è arreso. Sono il senso in mezzo al caos. Io sono il diritto degli oppressi. Che viene venduto da questi cani che derubano la gente del loro pane quotidiano e che sbattono la porta in faccia alle idee. Io sono coloro che sono liberi e che non hanno paura. Sono i segreti che non moriranno mai. Sono la voce di chi non si è arreso. Io sono libera e la mia parola è libera. Non dimenticare quanto costa il pane e non dimenticare la causa della nostra miseria e non dimenticare che ci ha tradito nel momento del bisogno. Io sono coloro che sono liberi, che non hanno paura. Sono i segreti che non moriranno mai. Sono la voce di chi non si è arreso. Io sono il segreto della rosa rossa, il colore degli anni amati, il profumo dei fiumi nascosti, che è spuntata come fuoco per chiamare coloro che sono liberi. Io sono una stella che brilla nelle tenebre. Sono una spina nella gola dell'oppressore. Sono un vento a contatto col fuoco. Sono l'anima dei non dimenticati, la voce dei non morti. Trasformiamo l'acciaio in argilla e costruiamo con essa un nuovo amore che diventi uccelli, che diventi un paese, che diventi vento e pioggia. Io sono tutti i popoli liberi del mondo messi insieme. Io sono come un proiettile. Sono tutti i popoli liberi del mondo messi insieme. Sono un proiettile. أنا أحرار الدنيا. Ok, bentornati in studio. Jos ricordava che quando c'era Ben Ali, questa cantante è stata soppressa, anche mandata via dal proprio paese perché comunque cantava canzoni di libertà. Qualcuno scriveva quanto costa un grammo di libertà. Ebbene sì, va apprezzata e va conservata e va anche coltivata la libertà, perché non è una cosa che è scontata, diciamo. Ok, adesso ritornati in studio, io vorrei sapere cosa ne pensa il mitico e l'epico Peppotto al riguardo di questa bella intervista. Vai, clandestino. Da questa intervista, cosa ne penso? È stata. Allora, sono molto contento di essere qui stasera e partecipare a questa trasmissione, confrontarci con culture diverse dalla nostra, ci fanno sempre crescere il confronto con culture diverse. La canzone è molto bella, sia il testo che la musica. E il resto, non lo so, va bene così. Ti ricorda qualche italiano che vuoi citare, magari non lo so, qualche artista italiano? Nessuno, non mi ricorda nessun artista. No, vuoi parlare tu, se vuoi dire qualcosa? No, passiamo il microfono a Ciccio, che è meglio. Ok. A riguardo di politiche e elezioni, vogliamo ricordare anche le amministrative comunali che si sono consumate, diciamo in parole così, in questi 2 giorni. Comunque, sono contento per chi ha vinto, scontento e tanta amarezza per chi ha perso. Comunque, alla fine, chi sale sulla poltroncina e chi andrà a governare qualcosa o qualcuno sarà per via del popolo. Quindi, come si suol dire, ad ognuno la propria pena, non lo so, o la propria vittoria, o comunque il proprio modo di fare e di pensare. Al riguardo, vorrei ricordare un artista che anche a proposito delle elezioni scrisse una bellissima canzone che adesso il nostro macchinista ferroviere Giuseppe Cristoforo manderà in onda. L'artista si chiama Giorgio Gaber e questo è un pezzo molto Clash, come mi suggerisce Pigno che è in aula. Comunque, volevo pure salutare Gian Domenico Rizzuti che dice di amare follemente la sua ragazza Roberta Fogno, comunque, fuoco, anche dei messaggi comunque d'amore in onda, cioè una cosa molto positiva. È sempre una specie di confronto, comunque vi lascio l'ascolto. In cui ti senti più pulito, anche la strada è più pulita, senza schiamazzi e senza suoni. Chissà perché non piove mai quando ci sono le lezioni. Una curiosa sensazione che rassomiglia un po' a un esame, di cui non senti la paura, ma una dolcissima emozione. E poi la gente per la strada, li vedo tutti più educati, sembrano anche un po' più buoni. Ed è più bella anche la scuola, quando ci sono le lezioni. Persino nei carabinieri c'è un'aria più rassicurante, ma mi ci vuole un certo sforzo per presentarmi con coraggio. C'è un gran silenzio nel mio seggio, un senso d'ordine e di pulizia. Mi danno in mano un paio di schede e una bellissima matita, lunga, sottile, marroncina, perfettamente temperata. e vado verso la cabina, volutamente disinvolto per non tradire le emozioni. E faccio un segno sul mio assegno, come son giuste le lezioni. È proprio vero che fa bene un po' di partecipazione. Con cura piego le due schede e guardo ancora la matita così perfetta e temperata. Io quasi quasi me la porto via. Me la porto via quella matita della democrazia. Ok ragazzi, volevo semplicemente ricordarvi una cosa, che è possibile interagire in streaming con la radio tramite il contatto Skype che è clandestino.cid. Ok, niente di altro volevo ricordare, essendo la trasmissione clandestino. Molti si chiedono perché questo nome, clandestino, perché comunque vorremmo toccare tutto quello che ci circonda, non avere barriere, queste maledette barriere, non sentirci soltanto calabresi, italiani, europei, ma cittadini del mondo, finalmente mettiamo questa firma. E comunque, se possibile, vi invito a interagire con noi su Skype oppure anche su Facebook, come stanno facendo tanti nostri telascottatori, diciamo. Ok, volevo ricordare che oggi c'è stata una manifestazione a Cosenza da parte degli immigrati, questi ragazzi che comunque, appunto, parlando di libertà prima con gli host, ancora a qualcuno viene negata la libertà del permesso di soggiorno, che è un tema molto importante e trucido, direi, perché comunque privare un uomo anche del servizio medico mi sembra qualcosa di indecente ai tempi che viviamo. C'è stata questa manifestazione a Cosenza da parte di questi immigrati che vivono nell'ex albergo di Rogliano. Comunque rinnovate sto permesso di soggiorno, dai. Rinnovate il permesso di soggiorno, che non dovrebbe esistere il permesso di soggiorno. Una persona dovrebbe essere libera di andare in qualsiasi posto del mondo senza dover chiedere l'autorizzazione a queste autorità. Non ho capito perché ci devono essere queste frontiere. Senza frontiere nessun clandestino. Togliamo queste frontiere, punto. Un unico mondo, tutti devono essere liberi, va bene. E Jos cosa ne pensa di sto permesso di soggiorno, che comunque è un incubo delle persone che... che ne pensi, Jos? Come ha detto Peppe, che il permesso di soggiorno è una cosa molto formale, che è una barriera. Sì, per fare il permesso ci vogliono tantissimi documenti, ci chiedono... A me hanno chiesto reddito, quanto ce l'hai soldi in banca per darmi un permesso di soggiorno. Le maledette banche, sempre queste banche, no? A proposito, vorrei chiamare un ospite anche qui presente, vabbè, un capo comunque qui, tra virgolette, del PC, Samuele Di Leone, che ne pensa di ste banche, anche per sti permessi di soggiorno? Tu devi sapere quanto c'ho io per le banche. Intanto rimando al mittente la cosa del PC, perché è una cosa che non ci riguarda. Ah, ecco, sì, se riguarda il PC, sì, più... Ah, grazie. Però anche lì non sono molto ferrato, insomma, anche perché ci sono degli attribui non da poco. Rispetto alla questione delle banche, noi abbiamo diverse cose che succedono con le banche, perché ormai dire, il mutuo è come dire, il membro della famiglia in più che ha ogni famiglia italiana, insomma. Cioè, e ci sono altri due membri che la famiglia italiana sta intendendo ad avere: uno è il mutuo e l'altro è Equitalia. Cioè, due cose non da poco. E questo, come dire, c'è chi dice che abbiamo vissuto molto al di sopra delle nostre possibilità, però diciamo che io non mi ricordo di aver navigato nell'oro negli ultimi 20-30 anni, quindi sicuramente se qualcuno che ha vissuto al di sopra delle nostre possibilità è chi è che ha affamato in Italia e non solo, provocando anche, come dire, quelle migrazioni di cui anche in Italia siamo stati storicamente colpiti. Sono veneto, io, ci sarà un motivo per questo. Ma tu invece sei sempre stato a Petronà? Sì, sempre calabrese, fiero di esserlo, anzi cittadino del mondo. A proposito, vorrei ricordare e ringraziare un carissimo gruppo, un crew, diciamo, dell'All Star di Valencia, che sono, è un gruppo praticamente sonicchisap, un gruppo reggae ska, che spacca proprio, li consiglio vivamente. Adesso passeremo un loro pezzo. Vorrei ringraziare innanzitutto la dottoressa Carmen Siscar Martinez e Raffaele Colosimo, futuro dottore, per averli portati in giro, diciamo, avere fatto messia di questa canzone. Niente, vi lascio all'ascolto della canzone. Esto no es un canuto, esto es un submarino, un avión. Esto es un avión. Pero cuidado que sube cantidad. ¿Así que dices que te va? ¿Me va a subir? Ponte el cinturón de seguridad por lo que pueda pasar. Estoy fumando desde que me parieron. Yo me fumo lo que sea, he fumado de todo. Michoacán, oro de Acapulco, la Biblia en verso. 2009, quizá ha vuelto. What diggity diggity diggity boy? Hey yo, hey yo. What diggity diggity diggity boy? Haha, siempre dando el spliff, al chalice, al boom. Sonido que mata al fascista. Real Mumbo falla al capital. yard. One diggity, one diggity, one diggity, boy. Ok, ben ritrovati. Abbiamo una notizia dell'ultima ora. Praticamente l'effetto delle bombe al fosforo bianco sui bambini palestinesi è qualcosa di veramente disastroso. Posteremo tutto su Facebook. Comunque qui giustamente scrivevano, ma l'ONU, la NATO e il resto del mondo questo non lo vedono. Un po' anche di appoggio per il popolo palestinese, giusto Pep? Sì, giusto. Più che non lo vedono, secondo me non lo vogliono vedere. È diverso. Come mai, Pep? Forse hanno i paraocchi, non lo so, qualche fetta di prosciutto sugli occhi. Il prosciutto è buono, perché loro guadagnano un sacco di soldi e quindi se lo possono permettere questo prosciutto. Capisco, capisco. Ma solitamente va mangiato il prosciutto, questa volta lo mettono sugli occhi, perché? Non lo so, è una moda forse che va nei palazzi dell'ONU, deve uscire col prosciutto sugli occhi forse. Cioè io ricordavo tipo le patate, i kiwi, non lo so, cetrioli, alla prossima puntata magari inviteremo anche un estetista, magari ci parlerà di qualcosa del genere che succede nei palazzi dell'ONU. La prossima canzone è un ricordo che lega a me e il mio speaker di fiducia, Peppotto. Comunque è una canzone dei mitici Police. E il titolo è, Peppe, il titolo? Message in a Bottle. Wow, ma un messaggino romantico. I'll send Aspettando che termina questa canzone, volevo fare un saluto a Roma, a un grande amico, il nostro amico Tarlo. Ciao Tarlo. Ok, ok. A proposito di saluti e non saluti, vogliamo salutare la nostra ospite che purtroppo ci lascia. Un po' tristi, poi manderemo una canzone romantica per te, Yos. Tornerò la prossima volta e mi preparo bene per parlare di una cosa importante. Ok, Yos, un saluto in arabo, diciamo una buonanotte al tuo popolo, a tutto il mondo. Allora, tasbah ala khir, ulidkom zina wa ahlam sa'ida. In francese pure. Bonne nuit, je vous souhaite des rêves d'or. Ok, Yos, è stato un piacere averti qui e ti ringraziamo anche perché abbiamo avuto problemi tecnici comunque stasera, quindi per la pazienza, sì, non mi viene il termine. Ok, Yos, buonanotte, bonne nuit. Buonanotte. E ringraziamo anche le accompagnatrici di Yos, un saluto collettivo, collettivo. Comunque, vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che è possibile, se volete, e sempre Peppe, se volete, che comunque potete postare delle canzoni che vi piacciono, proprio se desiderate magari ascoltarle quando facciamo i cretini e Peppe, no? Cioè, se volete potete postare queste canzoni, dopo noi piano piano e con cautela sempre. No, Peppe, cautela. Sì, sì, sempre un po' di cautela. La cautela di Peppe. Le manderemo in onda, in onda, in onda. Allora, Peppe, non lo so. Sì, il prossimo pezzo che dei... Lo vogliamo dedicare a un'amica che ce l'ha consigliato. Il pezzo è di Nebraino, si chiama Bifolco. Un saluto da Antonietta. Che prima di me non t'è mai capitato così, che ci provo in pubblico e ti bacio qui tra la gente, nei viali o nei bar, ti tocco il culo e poi ti stringo un po', tu che ridi, che dici di no, t'arrabbi piano e mi spingi un po' in là. Ma dove trovi più un pugno? sogno simile che se rallenta e ti sfiora ti fa stare così bene, ti senti splendida perché brilli di più e con me è droga autentica che fa stare così bene, ti senti splendida. Ma ho scoperto che se stringo un po' i tuoi occhi escono lacrime, ti insegno a piangere malgrado tu sai far ridere forte di me. Se faccio il pugile quando in realtà basterebbe ballassi con te per annegarci di felicità. Se guardo giù ho le vertigini, mi mandi in alto tesoro se mi guardi così, e quassù mi manca l'aria e salirei di più, non so che succederà, perso nel blu. Ringraziamo e la dedichiamo ad Antonietta questa canzone. Niente, io volevo salutare gli amici di Radio Cicletta, se ci stanno sempre ascoltando, oppure manderemo anche quel paese, no, sto scherzando, Radio Cicletta di Pisa, magari qualche volta, non lo so, se è possibile, potremmo, come dire, instaurare un rapporto. Una mutua collaborazione. Ah, messaggi da parte di Peppe, una mutua collaborazione. Niente, Peppe, io qui leggevo notizie di Anza che praticamente in Messico la candidata è in topless sul manifesto. Cioè, ma tu immagini in Italia, non lo so, una santa anche una Mussolini in topless sul manifesto. In Italia mi sembra che non c'è mai stata nessuna in topless, non lo so, in un letto di... C'è stata... Ah, no, mi ricordano che c'è stata... Che forse l'ultima elezione si è candidata Cicciolina al comune di Corigliano. E non so quanto voti ha preso, o non lo so. Magari possiamo fare anche una specie di campagna, se la prossima volta la signora ci... Ce lo fa sapere prima, mandiamo in onda una campagna elettorale, così cambiamo tutti residenza, non lo so, andiamo a Rogliano e votiamo Cicciolina. A Corigliano, no? A Corigliano, scusate. Non lo so, tu hai voglia di votare Cicciolina? Dovresti votare? Perché? C'è qualcosa di meglio in giro, non lo so. Sì, hai ragione. A questo punto preferirei non andare proprio a votare. Pure per Cicciolina, beh. E anche per Cicciolina, sì. Volevo leggere il suo programma prima. Non so che programma elettorale ha Cicciolina. Comunque, programma sia, mi arriva una notizia della nostra ascoltatrice Rossella, che praticamente Mocce è diventato sindaco di un paesino vicino Chieti, altro che Cicciolina, vero? Ma beh, ti rendi conti, Moccia, cioè, e questa è la vera politica, infatti. Chi è Moccio, quello che si pulisce per terra? Chi è? Battuta scrausa, proprio. Bad, bad, direbbero nei paesi anglosassoni. Passiamo un altro pezzo qui su Clandestino Cid Fuori Onda Radio punto altervista punto org. Un'altra dedica a Emiliana, ci ha chiesto una canzone dei Pancreas. Strane creature verdi che studiano i riti dei Celti e dei Longobardi. Non parlano la lingua italiana, non sanno chi fosse il poeta Leopardi. Ma odiano il kebab, Maometto i senza tetto, anche la pizza. Chiacchiere da bar, si mischia la polenta con la razza. Inventano qualche balla, attirano la folla, col rito dell'ampolla e l'offerta di Obon. Ricordo gli esordi degli uomini verdi, rancontro i terroni pugliesi, anche i sardi, finocchi, gli zingari, i negri, bastardi, il tricolore Garibaldi. Odiano il kebab, Maometto i senza tetto, anche la pizza. Chiacchiere da bar, si mischia la polenta con la razza. Cantando il fa pensiero, ci credono davvero, fedeli a un condottiero, un druido fatto un po' così. Non parla neanche bene, si esprime solo a gesti, se lo incontri per la strada proprio non diresti che fa parte della razza superiore, si può fermare solo con l'aiuto del dottore. Ma se la scienza medica si mostra pessimista, ci vuole l'esorcista. Senti che puzza, scappano anche i cani. Stanno arrivando i napoletani. Napoli merda, Napoli colera. Tu sei la vergogna dell'Italia intera. Ma vorrei che fosse chiaro che tra i napoletani ce ne sono tantissimi, per bene anche di più. Non siamo noi, noi siamo quelli che pure a Napoli ci chiamano il Zulu. Odiano il kebab, Maometto i senza tetto, anche la pizza. Chiacchiere da bar, si mischia la polenta con la razza. Cantando il fa pensiero, ci credono davvero, fedeli a un condottiero, un druido fatto un po' così. Non parla neanche bene, si esprime solo a gesti, se lo incontri per la strada proprio non diresti che lui crede di far parte della razza superiore, si può fermare solo con l'aiuto del dottore. Ha un posto fisso in villa, si sente lusingato, ma poi la vera festa inizia quando se n'è andato. Lui crede di far parte della razza superiore, si può fermare solo con l'aiuto del dottore. E bentornati, bentornati. Mandiamo la buonanotte a chi va a nanna, perché c'è già gente che va a dormire. Niente, c'era un nostro amico che voleva salutare un certo Carlo, però comunque un messaggio incognito, no, nemmeno, non diamo importanza a niente. Comunque lo salutiamo noi, ciao Carlo Tancredi, Tarlo, Peppe? È un maracomanna, Tarlo. Ok, adesso appunto perché ce l'ha richiesta Tarlo, mandiamo una canzone di Eugenio Bennato, Grande Sud. Tarlo ha detto mandatela per noi che siamo lontani dalla nostra terra. Però Tarlo, ricordiamo che siamo clandestini, qui non c'è terra, sei figlio del mondo. Però per te e per migliorare un po', dare un senso anche alla nostra musica, alla nostra storia, che purtroppo da gente viene eclissata. si muove va lontano, musica di terza classe in partenza per Milano. C'è una musica che batte come batte forte il cuore di chi parte contadino ed arriverà a Terrone. Musica in quel sole che negli occhi ancora brucia, nell'orgoglio dei braccianti, figli della Magna Grecia, in quel sogno di emigranti, grande come grande il mare, che si porta i bastimenti per le Americhe lontane. E chi parte oggi per tornare dai, e chi è partito da ieri per non tornare mai, e chi parte oggi per tornare dai, e chi è partito da ieri per non tornare mai. Grande Sud che sarà l'anonima canzone di chi va per il mondo e si porta il sud nel cuore. Grande Sud che sarà quella musica del ghetto di chi va per il mondo e si porta il suo dialetto. Non è, non è, non è, non è, non è, la capo dallo suono, data vincerai lo mese per darai le dai colore. Non è, non è, non è, non è, per un libro va alla scuola, guarda, va la legge, scrive, terra, va la palla, non è, non è, non è, non è, non è, la capo dallo suono, data vincerai lo mese per darai le dai colore. La musica nei sogni di chi dorme alle stazioni, negli antichi sentimenti delle nuove migrazioni. C'è una musica nel viaggio dalla terra di nessuno, di chi porta nel futuro i tamburi del villaggio. Grande Sud che sarà quell'anonima canzone di chi va per il mondo e si porta il sud nel cuore. Grande Sud che sarà quella musica del ghetto di chi va per il mondo col suo ritmo maledetto, e sarà quel racconto e sarà quella canzone che ha a che fare coi briganti e coi santi in processione, che ha a che fare coi perdenti della civiltà globale, vincitori della gara a chi è più meridionale. E chi parte oggi per tornare cai, e chi parte da ieri per non tornare mai, la cosa non è andare facciale, ma c'è buona roba, c'è buona tanana, ma c'è buon re, ma c'è buon re, ma c'è buon re, buona di rimanere. Grande Sud che sarà quell'anonima canzone di chi va per il mondo e si porta il sud nel cuore. Ci ritroviamo come quegli amici al bar. Allora, praticamente leggevo su Young Liberal Informazione un articolo che praticamente titola "Il capitalismo uccide 4.000 bambini al giorno". Capito? Il capitalismo uccide 4.000 bambini al giorno. Bella cosa, bella cosa, bella cosa. Salutiamo il capitalismo, ciao. Ciao capitalismo. Ciao, ciao. Anche l'imperialismo in sé. Pure salutiamo anche lui. Tutti. Tutti quanti, tutti quanti. Compari? Sono compari tra di loro, sì, capitalismo, imperialismo e cazzi vari. Cazzi non si può dire. C'è la censura. No, ma qui no, perché siamo la radio libera, quindi diciamo anche noi la censura. E infatti, leggendo su nocensura.com, i nostri cari amici ci mandano dal movimento contro Green Hill, si prepara in vista dell'8 maggio, che sarà la giornata mondiale contro la vivisezione. Cosa ne pensi, caro Peppe, sulla vivisezione? Sulla vivisezione, anche noi qui la pratichiamo in Calabria quando ammazziamo il maiale. No, quella è per vivere. Ah, quella è per vivere. Vabbè, vivisezione. No, vabbè, qua stiamo parlando comunque scopi capitalistici, diciamo. Ah no, per gli scopi capitalistici no, invece quando per ammazzare il maiale, per mangiarlo va bene. Certo, certo. Vabbè, è cultura, ogni paese avrà il suo maiale da uccidere, no? diciamo che ogni famiglia più che ogni paese. Sì, da noi sì, ma lo vedi come uno spreco tu, Peppe? No, no, no, è una cosa bella. Eh sì, ma perché ti vedo quando mangiamo insieme che comunque sta salsiccia soppressata, no? Come dici, quando vedo mangiare mangio tutto, no? Sì, sì, mangiamola che è buona la soppressata paesana. Poi con un bel bicchiere di? Di vino nostrano. Colore? Rosso, senza bisolfiti. Ricordiamo, senza bisolfiti, che dopo, il giorno dopo, che cos'hai? Cioè, ti fa male la testa. No? Peppe da templare del vino, quindi, ci insegna che bisolfiti... Dice no, è bisolfiti anche Peppe. Ok. Ma dice sì a Balzoia. Ma dice sì a Balzoia, addirittura. Comunque, passiamo a un altro pezzo, un prezzo dei Jethro Tull, Locomotive Brave. Shuffling madness on the locomotive breath runs the all-time loser headlong to his death. Oh, it feels a piston scraping, steam breaking on his brow. Old Charlie stole the handle and the train in Watchtop going nowhere to slow down. His children jumping off the stations one by one. His woman and his best friend in bed and having fun. Oh, it's crawling down the corridor on his hands and knees. Oh, Charlie stole the handle and the train in one stop going nowhere to slow down. The silence howling catches angels as they fall. And the all-time winner has got him by the balls. Oh, he picks up Gideon's Bible, open at page one. I thank God he stole the handle and the train and Watchtop. Oh, and oh, it should slow down. No, it should slow down. No, it should slow down. Allora, vorrei ricordare un po' di informazione, buona musica questa sera, cari ascoltatori, che praticamente il Taranto Basket femminile da quest'oggi è campione d'Italia! Che bello! Poi vorrei ricordare a tutti che a Cosenza, il 14 maggio, all'Officina Babilonia, c'è il concerto Officina della Camomilla, in concerto per... Allora, innanzitutto non c'è solo il concerto, c'è tutta la giornata in favore di autistici. Autistici è una, in pratica, un servizio di offre server e servizi informatici anonimi. C'è un'iniziativa che inizia il pomeriggio, ci sarà un seminario, poi una cena sociale vegana, onnivora e vegetariana. E poi in seguito ci sarà il concerto delle Officine della Camomilla, grandissimo gruppo. Quindi consigliamo a tutti di non mancare a Cosenza sempre. Alle Officine Babilonia. Ok. Poi niente, leggevo che una notizia su Repubblica: femminile nordista, così cambia l'italiano. Cioè, ancora quindi stanno cercando le streghe lì, Peppe. Fammi capire una cosa. Non lo so. Le streghe comunque saranno meridionali sicuramente, perché le gente che vanno al rogo saranno o meridionali o clandestini, appunto. Speriamo siano clandestini. Come noi. Appunto, Peppe, vogliamo distruggere, ma ancora sti pregiudizi, non lo so, no? Sti cortili nella nostra nazione, tra leghisti, padani, noi del sud, gente di Vicenza, anche gente di Vicenza, cioè siamo tutti italiani, siamo sotto la stessa bandiera, siamo cittadini del mondo, siamo cittadini del mondo. Allora, anzi, mi dicono che anche tanti leghisti non sono proprio andati a votare. Chissà perché, dopo sti scandali, Peppe. Ma che è successo lì in casa Bossi? Non è successo nulla. Bossi, poverino, non sapeva nulla. Anche a me tutti i giorni vengono a riparare la mia casa, vengono a imbiancare la mia casa senza dirmi nulla. Mi comprano una casa al mare. Io vado al mare in una casa che mi hanno regalato. L'altro giorno sono entrato in casa e c'era un tipo che mi stava imbiancando le pareti. Mi hanno detto, gli ho detto scusa, ma che stai facendo? No, ti imbianco le pareti. Mi hanno mandato. Non capita anche a te, Ciccio? Solitamente lo facciamo noi questo, imbiancare le pareti. Però se viene qualcuno a imbiancare le pareti di casa mia, mi sta bene. Sì, se te lo fa gratuitamente, tu mica paghi tu, paga il partito, pagano gli elettori, pagano gli italiani, no? Eh sì, il partito, no? Il partito. Quindi diciamo anche no a sti partiti, clandestini pure partiti. Esatto, vaffanculo a tutti i partiti. E non si dicono le parolacce. Beh, scusa, c'è la censura, la solita censura di Ciccio. Adesso passiamo un pezzo... degli Africa Unite possiamo passare, no? Certo. Ho visti quest'estate a Di Pignano, alla festa della birra. E ti sei sbronzato? No, perché c'era una bella fila lunga. Comunque sono il primo gruppo reggae italiano, mi sembra, no? Bravo. Nati nell'82. Bravissimo Peppe. Che dopo cultura. La morte di Bob Marley. Mamma, che cultura musicale. Infatti ricordiamo che i primi pezzi erano tutti delle cover del grande Bob Marley. A tema, Peppe citava la festa della birra. Lanciamo un messaggio. Se bevi, sei uno? Un clandestino. No, uno sbronzo. Vai con il pezzo, vai con il pezzo. Per favore. All'orgoglio di nazione, ma da un incontro o anche talvolta uno scontro nasce un germe di creazione, invenzione, attrazione, genetico evolversi, ce lo ricorda la storia, racchiuso nel sangue, il destino è confondere per migliorarsi, via verso un'alba meticcia, tessuto di corpi insieme, ancora un'alba meticcia. Oh yeah. Mischia. di là di un coro di mediocri opinioni, contrattacca e dissenti, perché le menti, già purissimi ma sterili da tempo, fondendosi fecondano alchimie e reagenti, non chiuderti nei spazi al tuo cervello, solo dallo sguardo riconosci un fratello. Via verso un'alba meticcia, tessuto di corpi insieme. Ancora un'alba meticcia, allora, fantastica immagine. Il ministro Fornero con Bonanni, un servo dei padroni, per cui persino la parola venduto è troppo. C'è un nostro amico che ha avuto a che fare con Bonanni qua, non lo so, Pierpa, vuoi mandargli un saluto? No? Va bene. C'è poco da commentare, infatti, alla fine c'è... per come funziona davvero... sto sindacato, l'obiettivo del lavoro. Comunque, vorrei sempre ricordare che è possibile, ma questa volta per problemi tecnici non è stato possibile. No, sì, per problemi tecnici non abbiamo potuto fare il collegamento con Skype per le chiamate in diretta, però dalla prossima trasmissione che andremo in onda venerdì sera alle 21:30, 22 più o meno, e lì potremmo fare le interviste telefoniche, diciamo Skype fofane, non telefoni. Comunque sì, rimodernizziamo il tutto, anche il concetto di chiamata, no? Con Skype potete farlo gratis, quindi basta con la Telecom, basta con Tele2, basta con Tiscali, usate Skype, così dopo mettono pure la testa su Skype. E andiamo bene così. Comunque leggo che la differenziata, il presidente dell'Asia a Scampia e Posillipo più 70%, quindi diciamo che sto De Magistris non c'entra niente, capo, eh? Però perché si va avanti così adesso, e prima c'erano questi problemi anche con questa spazzatura in giro, adesso sono arrivato più giù il problema della spazzatura. Avranno trovato delle fosse più grosse dove seppellire la spazzatura a Napoli. Oppure gli incendi sono finiti perché è bruciata tutta la spazzatura. Non lo so. Purtroppo. Ricordiamo che la differenziata è l'unico, secondo me, è l'unico modo per risolvere il problema dei rifiuti. E anche il riutilizzo più che la differenziata. Usiamo le bottiglie di vetro, le riempiamo d'acqua alla fontana e le riutilizziamo. E basta, acqua per tutti quando c'è. Allora, vorrei salutare Regina, che comunque continua con questi paragoni ancora del calcio, Catanzaresi, Cosentini. Beh, rispondi tu, per favore. Ricordiamo poi che Regina è un albanese. No. Un saluto a tutti gli amici dell'Albania. Salutiamo tutti gli amici dell'Albania e salutiamo Regina, che sostiene che la nazionale albanese di calcio vende le partite. Ma i miei dubbi. In più volevo salutare due squadre di calcio che ieri hanno ottenuto un importante risultato, la Juventus che ha vinto lo Scudetto dopo 6 anni, dopo Calciopoli, e il Catanzaro che è tornato in Serie C1. Okay. Giusto perché Regina voleva questa dedica particolare, dato che la sua squadra del cuore è il Catanzaro. Manderei un pezzo di Janis Joplin, non lo so, Cosmic Blues. Lo voglio dedicare ai colleghi adesso, vabbè, ce la sentiamo di chiamarli colleghi, anche fratelli, amici di sempre dei Mozilla Bros. Qua abbiamo in studio Lorenzo Blues, saluto Cicillo, gli dico magari di organizzare una grigliata più presto, Andrea Blues e Marco, e anche Pigno, gli amici di Petrona in generale. A proposito, vorrei anche salutare Daniel Talarico e Gian Domenico Rizzuto. Time keeps moving on. Friends ain't turning away. La, la, la. When I keep moving on, but I never find out why. I keep forgetting to hold it, babe. I keep trying to make it right. Has come late. Time keeps moving on. Yeah, yeah, yeah, yeah. Well, I'm 25 years old now, so I know what we keep it right. And I'm no better, babe, and I can't help it no more than I did when I was just a girl. Expect any answers needed. Oh no, they don't come with age. No, no, no, no. Hey, they ain't never gonna love you any better, baby. And they're never gonna love you right. So you better dig it now, sit right in now. Yeah, but it don't make no difference, baby. I'm gonna need it now. said, darling, all I ever wanted was for you to understand. Whoa! Allora, bellissimo pezzo di Janis Joplin, Cosmic Blues. Janis Joplin è il soul. Incredibile, sì, una vera forza della natura, come che possiamo dire su questa magnifica artista. Comunque, Peppe, ritornando sempre anche ai fatti, diciamo, tristi, perché a me era triste molto quando, per esempio, hai qualcosa, no, non la mantieni integra, diciamo. Italia, il paese delle meraviglie sommerse. Allora, non è che dobbiamo andare a cercare la Torre Eiffel o la Statua della Libertà. Non abbiamo bisogno di queste, ma almeno, no? Un consiglio che posso dare proprio al Consiglio Nazionale delle Ricerche e Sviluppo, ministeri vari e nazioni varie, no? Almeno la... mantenere integro quel che c'è di bello nel proprio paese, no? E non andare avanti a emulare qualcosa o qualcuno. Anche se in altri paesi lo fanno, ancora qui siamo qui in Italia, lasciamo al degrado totale tutto quello che ci circonda e andiamo a costruire altre cattedrali nel deserto, Pep. Specialmente in Calabria, come ricordare la Pertusola di Crotone, che è stata costruita sull'antica città greca di Croton, e ora c'è soltanto amianto, che è stato utilizzato anche per costruire le scuole, le strade. Infatti un sacco di bambini, all'epoca che hanno fatto le scuole sono malati di tumore. Purtroppo si preferisce il profitto alla salute e alla sopravvivenza di noi popolazione. Poi volevo ricordare a Tarlo, il nostro amico che ci contatta sempre su Facebook, il social network qua, che non vogliamo fare pubblicità certamente a Skype, a Telecom, Tiscali e altre compagnie, ma soltanto avevamo invitato a utilizzare Skype invece del telefono, dato che anche se Skype è della Microsoft, una multinazionale, esistono anche altre alternative libere come Kiga o altre cose del genere, però sono poco conosciute. Comunque il VoIP è meglio del telefono, secondo noi, dato che si risparmia. È gratis. Va bene, va bene, va bene. Vorrei salutare anche tutti gli amici che ci stanno ascoltando dalla Polonia. Un progepani e progepani, un saluto a tutti quanti e a tutti gli amici che ci ascoltano anche dal vivo, innanzitutto, sì, dal vivo. Adesso un pezzo che ci suggerisce Stella, una nostra ascoltatrice, che è un pezzo dei Barzi, Live Time. 5 minuti di tempo. Si scherza un po'. Va bene. Che dire? Beh, ascoltiamo sto pezzo e invito tutti a contattarci, a magari a citare altri pezzi, a consigliare pezzi per l'ascolto. Ascoltiamo questo pezzo. I'll take the blue of spring. now. Cause you could choose a brand new life. And Ok, e ritorniamo con una dedica, proprio sfrontati. Sfrontatissimi. Cid. Una dedica da Gian Domenico, che dedica questo pezzo ad Andrea Biafore, e mi scrive: Memoria dei vecchi tempi. Il pezzo è di Eric Clapton e lo ascoltiamo subito. Really? What? I dream I had a good job. Ritornati dopo questo grandissimo pezzo di Eric Clapton e B.B. King insieme, grandissimi, tutti e due. Non lo so, cosa ne pensi di questi due tu, Stefano? Che blues, com'è? Allora, ritorniamo a discutere di quello che è successo, non lo so, oggi, in questi giorni. Volevo salutare un Sarkozy che ha detto lascia la politica. Oggi è stato sconfitto nelle elezioni in Francia. Vero. Cambia l'aria, beh. Eh? Una ventata d'aria nuova. Vediamo cosa succederà con questo nuovo presidente in Francia. Che è successo più? In Giappone sono stati spenti i reattori nucleari. È una cosa che viene fatta ogni anno comunque per controllo. Comunque, ma questa volta si pensa che per sempre. Sarebbe una cosa buona, ma non penso. Non lo so, anche in Italia vorrebbero riaprirli dopo che abbiamo vinto il referendum l'anno scorso. Eh beh, certo, perché in Italia possiamo gestire le nostre risorse, no? Tra acqua privatizzata, l'elettricità che va a farsi fottere e la spazzatura che sommerge le popolazioni. Ci manca soltanto il nucleare, quindi votiamo sì al nucleare. Eh sì, perché l'Italia non è una nazione soggetta a rischio sismico come il Giappone. È come il Giappone, l'Italia. Sì, ma a differenza del Giappone, per esempio, guarda la differenza con l'autostrada, la 3, qui in Calabria. In Giappone dopo 5 giorni le autostrade a 4 corsie erano già state ricostruite, qua sono 40 anni. Scusa un attimo, in Calabria esistono le autostrade pure? Non l'ho mai vista, dov'è? Sì, perdonami. Vabbè, è fatta pure una certa ora comunque. Stai parlando della mulattiera. Va bene. Vediamo, Ciccio. Niente, adesso presentiamo un pezzo. Un pezzo del mitico Francesco De Gregori, il principe. Il pezzo è Tempo Reale, dell'album Pezzi. Dell'album Pezzi, l'uomo che cammina sui pezzi di vetro, caro Peppe. E anche lui che scrive: e il pubblico spera che tutto ritorni com'era. Che sia solo un fatto di tecnologia. Paese di terra, ma ascoltiamo questa cosa. Paese di terra e di polvere, paese di pecore, pesce, cani e fuoco sotto la cenere, dentro le stanze del potere l'autorità va a tavola con l'anarchia, mentre il ritratto della verità si sta squagliando e la vernice va via. E il pubblico spera che tutto ritorni com'era, che sia solo un fatto di tecnologia. E sotto gli occhi della fraternità, la libertà con un chiodo tortura la democrazia. Paese di terra, terra di fumo, paese di figli, di donne, di strada, né dove se rubi non muore nessuno, né dove crimini paga. C'è un segno di gesso per terra e la gente che sta a guardare, qualcuno che accusa qualcuno, però l'ho visto solamente passare. E nessuno ricorda la faccia del boia, è un ricordo spiacevole. E resta soltanto quel segno di gesso per terra, però non c'è nessun colpevole. Paese di zucchero, terra di miele, paese di terra, di acqua e di grano, paese di crescita in tempo reale e piani urbanistici sotto al vulcano, paese di ricchi e di esuberi e tasse pagate dai poveri e pane che cresce sugli alberi e macchine in fila nel sole, paese di banche, di treni, di aerei, di navi che esplodono ancora in cerca d'autori, paese di uomini tutti d'un pezzo che tutti hanno un prezzo e niente c'ha valore. Lacrime, giardino d'Europa, stella stivale, papaveri e vipere e papere, dove è finita la tua dolcezza, famosa tanto tempo fa, la chiusa chiave dentro la tristezza dei buchi neri delle tue città. Chissà se davvero esisteva una volta, se era una favola o se tornerà. Però se potessi rinascere ancora, preferirei non rinascere qua. We'll be right back. Buonasera a tutti. Volevo salutare Roberto che ci ha mandato un messaggio privato da Reggio Calabria. Roberto che fa parte di un gruppo già presentato qui dalle parti Cosenza e che suonerà il 15 maggio al B-Side di Why Not All. Peppe voleva rispondere a Roberto per quanto riguarda sti reattori. Roberto dice sono stati chiusi per sempre. La mia, dove ho letto io, parlava di un arresto temporaneo. Questi reattori potranno essere riaperti sentendo le popolazioni locali, e però dato che questi reattori appartengono a dei poteri forti anche in Giappone, sarà difficile tenerli spenti per sempre. Per ora sono tutti chiusi, però è una cosa positiva, speriamo bene. Tornando alle elezioni di oggi, una brutta pagina secondo me è stata anche una bella pagina. A Cerreto d'Asti, in provincia di Asti, si è presentato un partito con di nome Fascismo e Libertà. Io sapevo che in Italia il partito fascista era estinto, non poteva essere più messo in piedi per Costituzione, dato che tutti difendono questa Costituzione italiana, che è la migliore al mondo, dicono, vabbè. C'è questo partito, e la cosa bella però è che ha preso solo un voto. Penso che è il suo voto. Beppe, ma è tristissima. Questa cosa è proprio triste, triste, triste, perché ancora ritroviamo questa mentalità che ci portiamo dietro dalla Seconda Guerra Mondiale, e quindi vediamo che... gli anni passano, i miti invecchiano, i muri sono crollati, ma ancora ritroviamo ste belle porcherie in giro. Ricordiamo che clandestino è antifascista, anti è antirazzista, è anti sessista, è anti proibizionista. Va benissimo, Peppe. Comunque siamo quasi in chiusura. Volevo informare i signori ascoltatori che la tazza di Lady Gaga è all'asta per 57.000 euro. Wow, che vado subito a prenderla. Questa notizia secondo me ha cambiato la vita di tantissime persone. Comunque vorrei far presente che un nostro ascoltatore, Gian Domenico, solleva e mette in luce un gravissimo problema che c'è ad Arcavacata, qui proprio la collinetta sovrastante l'università. Praticamente ci parla della mancata raccolta differenziata, dello stato di degrado in cui vivono anche cittadini e studenti, e ci dice che praticamente a Rogers ci sono praticamente girano porta a porta per fare questa differenziata. Qui non mettono nemmeno delle indicazioni nei cassonetti, vedi spazzatura per terra. Allora vorrei fare un appello a tutti, anche agli studenti, perché università non vuol dire soltanto studiare per gli esami o studiare per un lavoro futuro. Università vuol dire avere un insegnamento universale e anche praticamente avere proseguire per un insegnamento di vita. Quindi, cari ragazzi che vi sbronzate il sabato sera, e non solo che vi sbronzate, passate la seratella, anche per quelli che strombazzano in giro, no? Non buttate i vostri profilattici in giro, le vostre bottiglie vuote, il vostro pacco di sigarette, la vostra cicca. Conservatele, perché anche svegliarsi al mattino per trovare la strada pulita, che ne pensi? Cioè, un tuo pensiero, no? Se ti svegliassi una mattina e troveresti tutta la strada pulita. Penso che sono passati gli spazzini. Cosa che non accade. No, è difficile qui, specialmente qua ad Arcavacata, dove siamo noi. Diciamo che siamo un pochettino abbandonati dal mondo. La parte cattiva di Rende siamo noi di Arcavacata, siamo la periferia. Invece nel centro viene gestita un po' meglio queste cose. Però anche le strade sono fatte bene, mi sembra che sono piene di buche. Sì, è la prima volta che praticamente vedo le pozzanghere in discesa qui. È un evento straordinario. No, bellissimo, l'altro giorno andando dall'università verso diciamo il centro di Rende, c'è un bellissimo segnale stradale che non avevo mai visto prima in nessun altro luogo del mondo. E c'è un segnale scritto buche. Ah. Quindi, secondo l'amministrazione di Rende, il codice della strada prevede che ci siano le buche sull'asfalto. e hanno inserito l'apposito segnale. Quindi queste qua non vanno riparate, perché sennò l'automobilista, quando vede un segnale scritto curva, che non è curva in polacco, è diverso, vede, vede una, sa che c'è la curva e gira. Non è che si può trovare un rettilineo, quindi l'automobilista quando trova il segnale buche, aspetta le buche. E se lui trova l'asfalto bello e buono, rimane un pochettino perplesso. Perché pagando le tasse ti può accadere anche questo. Comunque, ricordiamo un appello del WWF. Praticamente, il leopardo, sono rimasti soltanto 35 esemplari al mondo. Vergognoso, Peppe, non potrò più usare la metafora del leopardo, perché è diventata qualcosa... Cioè, morirà. Finirà anche l'era del leopardo, come è finita quella del cinghiale bianco. Come è finito il dodo anche, non so se conosci il dodo, sì. Quello dell'albero azzurro. Un bel animale, un bel animale. È stato distrutto dagli europei che hanno colonizzato il Madagascar, mi sembra. Quindi rivogliamo il dodo e il leopardo anche nelle nostre campagne, perché no? Comunque adesso passiamo a un pezzo mitico, a mio avviso, dei Beatles, Don't Let Me Down. E saluto gli amici della Lombardia, Michele. She do me, ooh, she do me, yes she does. Bentornati, bentornati. Sul web popolano notizie assurde E una di queste è una notizia bellissima. Dopo 8 anni di matrimonio scoprono che i bambini non li porta la cicogna. La notizia dice: attenzione a raccontare la storia della cicogna, perché qualcuno potrebbe finire per prenderla alla lettera. È il caso di una coppia di coniugi tedeschi che si era presentata in una clinica per la fertilità, visto che dopo 8 anni di matrimonio non avevano ancora avuto figli e non riuscivano a venirne a capo. Gli esami però non hanno evidenziato nessun problema fisico in nessuno dei due coniugi. Grande è stato lo stupore del medico quando alla domanda «Quanto spesso fate sesso?» la coppia, dopo un'occhiata interrogativa, ha chiesto «Cosa intende esattamente?» È emerso che la coppia è cresciuta in un ambiente ultra religioso e nessuno aveva mai spiegato loro come nascono i bambini. I medici sottolineano: non stiamo parlando di persone mentalmente ritardate, ma di persone che dopo anni di matrimonio non erano consapevoli dei requisiti fisici per procreare. La coppia è stata messa in cura presso un terapista sessuale. Inoltre la clinica ha avviato una ricerca per scoprire se vi siano altre coppie delle stesse condizioni. Allora, questa qua è una notizia bellissima. Ciccio, tu cosa ne pensi? Mi sia consentito dire: scene di panico, Pepe, capito? È proprio dogmi, no, della religione, cosa ti portano in testa? Cioè, ragazzi, non seguite per filo e per segno, informatevi. E anche un appello alle scuole, fare un po' di informazione. Informazione sessuale. Ricordatevi, usate il preservativo. Se no, poi trovate la sorpresina, perché non c'è la cicogna. Non la porta lui, il bambino. Ecco. I nostri ascoltatori penso che ora, se non lo sapevano, lo sapranno. Va bene. Non lo so, se... Io... Ciccio, tu... Beppe, lo so, ti ha lasciato perplesso, anzi proprio stupito questa notizia, questa cicogna, maledetta cicogna che non porta i bambini. Ma comunque, niente, siamo sul finire, Peppe. Purtroppo stiamo per finire la puntata di oggi, ma torneremo presto, prestissimo. Venerdì andremo in onda al solito orario, diciamo, il solito no, perché sarebbe la seconda puntata, quindi andremo in onda verso le 21.30, 22, penso più 22. Collegatevi dalle 21.30 che da lì a poco ci collegheremo, sempre sulle frequenze di Fuori Onda Radio, che ricordiamo che è una web radio indipendente creata dal collettivo Fuori Onda Radio, che ha sede nell'aula più occupata dell'Unical di Arcavaghe di Rende, provincia di Cosenza. Chiunque volesse fare una trasmissione può farlo, venga qui a ne discute con o anche dall'estero. C'è anche una trasmissione God Slave the Queen che viene in diretta da Londra. Le altre trasmissioni che vanno su Fuori Onda Radio sono Banda Armata, del collettivo politico più occupata, e Mozilla Bros, dei mitici bluesman e nerd, e l'altra trasmissione è La Lira di Apollo, che è una trasmissione musicale. E manderei un pezzo e dopo torniamo con l'ultimo stacco, no Ciccio? Sì, vabbè, anzi, ne facciamo pure almeno. Cioè, diamo proprio la buonanotte adesso. Una cosa proprio romanticissima, che ne dici? Va bene, mandiamo l'ultimo pezzo, che è? Vabbè, l'ultimo pezzo è dei Folletti Gelosi, che è un gruppo nato in Calabria. E praticamente, non lo so, la sua storia conosciamo soltanto... il cantante e gli altri membri sono sempre calabresi ma emigrati per problemi di lavoro al nord Italia. Il cantante era Vittorio Scalese e questo pezzo si chiama Sogni Matti. Praticamente sì, c'è la prima strofa che fa: siamo i sogni matti e non ci liberano mai. E proprio la prendiamo così sul buono e sul ridere, ma ha un significato intrinseco tutta questa frase, ed è quella che rappresenta un po' anche la nostra iniziativa del clandestino, avere tantissimi sogni matti, anche perché Peppe è un grandissimo sognatore. Quanto sogna Peppe! Peppe non dorme, sogna. E quindi ringraziamo tutti gli ascoltatori stasera. Se avete problematiche da sollevare, non esitate a scriverci, canzoni da pubblicare se ne avete voglia. E io ringrazio innanzitutto e abbraccio Fuori Onda Radio e tutti i colleghi da oggi, e sono contentissimo di aprire questo progetto, lo chiamo così perché mi va di chiamarlo così, con Peppe. Spero che vada avanti e se son rose fioriranno, perché dal letame non nasce niente, no, dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori. Ok, vi lascio con la buonanotte, passo la parola a Peppe che ringrazierà sicuramente tutti, e buon ascolto con i Folletti Gelosi, Sogni Matti. Una buonanotte a tutti i nostri radioascoltatori e basta, ci vediamo, ci sentiamo venerdì. Se vi è piaciuta la trasmissione, ci sentiamo. Liberano mai, siamo la politica del niente, siamo bravi a fare solo guai, siamo sai, e ci facciamo sempre, sempre cazzi tuoi, perché non ridi più. Dei concerti non ne possiamo più, si fanno tutti il blues, si fanno tutti il blues, si fanno tutti il blues, si fanno tutti il blues. Siamo gli animali in gabbia, non ci liberate mai, siamo la politica del niente, siamo bravi a fare solo guai, siamo i pendolari di un lavoro che non ci date mai, ve la prendete con noi. Prendete con noi, facciamo musica, sempre musica, guardati dentro, guarda anche noi, non farti cazzi tu, politico bandiera.